Essere e benessere di Nicoletta Carbone. C'è chi ci sta già lavorando per portarsi un po' avanti, chi ha fatto solo la spesa, chi come ogni anno arriverà trafelato all'ultimo momento, giusto il tempo per mettere le gambe sotto il tavolo e scambiarsi gli auguri, ma va bene anche così, l'importante è ritrovarsi e stare insieme. Indipendentemente da che cosa, a prezzo di quali fatiche si metterà a tavola, il pranzo di Natale è un appuntamento speciale per la maggioranza di noi, non solo per quello che si mangia naturalmente, ma per l'atmosfera che si respira, un'atmosfera in cui i colori si mescolano ai sapori, ai ricordi, alle chiacchiere, alle risate dei bambini. Allora oggi vorrei fare con voi, se vi va, una sorta di prova generale del Natale. Insieme a voi cucineremo, prepareremo gli addobbi, faremo due chiacchiere, insomma è una specie di portateco, termine con cui si definiscono gli appuntamenti, le cene in particolare, in cui i partecipanti sono invitati a portare qualcosa con sé. Oggi allora, attraverso il nostro numero verde 800 24 00 24 potete portare ricette, ricordi, musiche, profumi, idee, giochi, buoni propositi e, perché no, desideri. Che cosa vorreste ricevere e che cosa vi piacerebbe regalare? So this is Christmas. What have you done? Stasera è la vigilia del giorno di Natale e voglio regalarti un ricordo assai speciale di quando io, bambino, vivevo nell'attesa di questo grande giorno pieno di sorpresa. Il nonno mi donava un arancio ed un torrone, il pranzo tutti insieme e alla fine il panettone. Nell'aria c'era gioia profumata alla cannella, sul tavolo biscotti con la forma di una stella. Natale ha un suo profumo, Natale ha quel sapore, che gusti con la bocca, ma poi senti nel cuore. Tratto dal libro Papà Natale, scritto da Alberto Pellai. Allora, a proposito di gusto, andiamo in cucina. Voi festeggiate la vigilia il 25 a pranzo, soprattutto cosa pensate di mettere a tavola? Avete già preparato qualcosa, lo state preparando, invece siete a corto di idee come me? Niente paura, il nostro numero verde è a vostra disposizione, 800 24 00 24, approfittate dei consigli che ci regala oggi Alessandro Circello. Ciao Alessandro! Buongiorno, buongiorno. Auguri, Intanto... Tanti auguri. E intanto Alessandro è chef, autore di Tutti a Tavola, editore Kowalski e Rai Eri. E però qui in studio abbiamo la supervisione del dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Buongiorno. Buongiorno, auguri in anticipo a tutti. Senti amore, ma dici un po' a papà che cosa gli prepariamo a cena della vigilia? Eh? La musetta al cuore con al forno. Che buono. Piatti buoni. Allora tesoro, per il pranzo di Natale facciamo volouvant con salmone norvegese, risotto alla milanese quello col midollo, ganascino di vitello, pandoro con il mascarpone e si pasteggia a champagne. Però, dottor Speciani, anche Natale, meglio non esagerare, usiamo il buon senso che è un ingrediente prezioso e salutare sempre, anche in questi giorni di festa. Non esagerare, io in questi giorni dico che le varie indicazioni mi fanno ridere, leggo colleghi, devo dire, stimati, che dicono mi raccomando, solo un pezzettino di tacchino, solo una patatina fritta, solo una... ma no dai, cioè ci sono dei trucchi più divertenti, no? Poi lo conosciamo qui parlando con noi, ad esempio sappiamo che se evitiamo di iniziare il pranzo di Natale affamatissimi, riusciamo ad essere, a gustare di tutto, con gioia, con piacere, con estrema, veramente godendo le cose che abbiamo davanti, i gusti, i sapori. Però ad esempio una cosa importante da fare in questo periodo è di fare la prima colazione, ricordarsela al mattino, perché se saltiamo con l'idea di restare leggeri, in realtà facciamo attivare un meccanismo per cui poi sbraniamo davvero i tacchini a colpi grossi. A proposito di tacchini, torniamo indietro, perché Alessandro, la vigilia di magro per tradizione, capitone al sud, ma anche frutti di mare, salmone. Facciamo due conti però anche con la crisi, Alessandro, e anche il tempo, che sempre è poco. Beh, è vero, normalmente ecco, piuttosto che mangiare sempre spigole orate, che poi in questo momento dell'anno, ma in tanti altri arrivano dall'altra parte d'Europa, in Italia abbiamo tantissimo pesce azzurro, ecco, magari fa bene dal, no, dal punto di vista nutrizionale e costa poco. Il pesce azzurro ce n'è tantissimo, faccio dei nomi, ecco, lo sgombro, le sarde, le alici, l'ombrina, anche la ricciola, sono dei pesci che non costano eccessivamente, che costano la media di 8-10 euro al chilo, sono di mare e comunque hanno un gusto ben deciso e delineato, possiamo fare tantissime ricette, ecco, dagli antipasti ai primi piatti ai secondi. Senti, una ricettina subito per le feste, per vestire a festa, sgombro, sardine o acciughe, pesce poveri, vestiti a festa? Un antipasto veloce con le alici, si sfilettano e si mettono su una placchetta da forno con un foglio di carta forno, con della provola affumicata, tagliata sottilmente con l'affettatrice o con un coltello ben affilato, quindi si alternano a modo di mille foglie. Una fettina di provola, 5-6 alici, fettina di provola e 5-6 alici, quindi si ripete l'operazione per 2-3 volte, si mette all'interno del timo fresco, quindi dell'erba aromatica al posto del sale per dare disapidità, ecco, sempre fresche le erbe, non quelle secche che predominano troppo del gusto, un filo d'olio e si inforna a 180 gradi per 10 minuti, si ottiene questo, ecco, questo croccante di provola affumicata e da lì ci possiamo mettere le sarde, anche lo sgombro va benissimo per questo antipasto. Dottor Speciani, questa le piace? Sì, mi piace molto. Poi io sono un affezionato, nella mia infanzia, questo è uno dei ricordi, era in una delle case dove sono stato, nelle vacanze, c'era questo pescivendolo che passava al mattino, anciue fresche, come diceva, no? Quindi c'era il pesce azzurro portato casa per casa ed è un ricordo fantastico, quindi mi piace. Marisa, buongiorno da Verona. Buongiorno e auguri a tutte e due. Grazie, Marisa. Sì, io le volevo dare una ricetta, oppure sarebbe meglio trovarla fatta perché è un po' lunga da fare. Le sfogliatine che fanno a Villa Franca di Verona. Come sono? Buone. E non vale buone, così. E glielo dico a me, cioè a me non piacciono i dolci, però mi piace da morire a farli. E le sto facendo adesso per tutta la mia tribù perché fra nipoti, figli e siamo in 15. E le fa lei? Sì, le sto facendo. È un dolce fatto di burro e farina esclusivamente e basta. Non c'è zucchero, non c'è niente, lo zucchero si mette dopo, prima della cottura. Ma le dico, è una meraviglia. Ma lei lavora questa pasta? Sì, io faccio la pasta, devo fare, facciamo 3,50 di farina, sì, e 3,50 di burro. Sì. Poi va miscelato, cioè mettendo gli strati, sì, si fa la farina con il burro, uno da una parte e uno dall'altra, poi quando è impastato bene l'uno e l'altro, si uniscono e si cominciano a fare come fare i libri. Cioè, metti una pagina di uno, poi la metti, la tiri con il mattarello, poi si rigira per 6 volte, sempre con l'intervallo di un'ora tra una e l'altra. Sì, è un bel lavoretto, però. Ma è un bel lavoretto che dà soddisfazione. Alessandro, questo è un lavoro veramente da cuoca sopraffina. No, a me piace cucinare proprio veramente in tutto, perché i tortellini li ho già preparati. Senta Marisa, non è che possiamo, c'è un posticino anche per il dottor Speciani, portiamo anche Alessandro Circiello, ormai che ha cucinato per tanti, tre in più, tre in meno. Guardi, a me sarebbe un piacere enorme. Grazie Marisa. Alessandro, hai sentito Marisa? Che brava. Sono delle ricette, poi con quella base, con quell'elemento croccante all'interno si può mettere qualsiasi, dai dolci ai salati. Io ultimamente ho fatta col baccalà all'interno, diciamo, del baccalà, il cotto nel latte, mantecato un po' come fanno nel Veneto, semplicemente baccalà e latte messo all'interno di queste sfogliatelle, quindi c'è questo retrogusto ovviamente esterno croccante, e le sfogliatelle si possono abbinare, ecco, dal dolce al salato. Andiamo a parlare anche un po' di colori, abbiamo parlato di cucina, continueremo, intanto voi continuate a mandarci le vostre ricette e chiedeteci se avete bisogno di un consiglio, perché noi siamo qua a vostra disposizione all'800 24 00 24. Ma mi piacerebbe anche con voi così parlare un po' dei regali che vorreste magari trovare sotto l'albero, o di quelli che avete fatto, dei regali che fanno bene al cuore e anche al vostro benessere. Io però vorrei salutare il dottor Claudio Widmann, psicanalista junghiano, autore del simbolismo dei colori. Buongiorno. Buongiorno a lei. Perché il Natale è, sì, anche sono i piatti della nostra tradizione, i nostri ascoltatori ci stanno già mandando le loro ricette che commenteremo con Alessandro Circiello e con il dottor Speciani, ma Natale è anche la festa del colore, di colori che a Natale rivestono di un significato particolare. Penso al bianco, al verde, al rosso, ma aggiungo anche naturalmente l'oro e l'argento. Certo. Ma il primo colore natalizio è probabilmente il verde, perché le celebrazioni natalizie si iscrivono, si collocano in un momento molto particolare per oggi e soprattutto per il passato, il momento in cui c'è della luce, il momento in cui la vegetazione si è assopita, e quindi l'uso dei sempreverdi è un uso antichissimo, fronde di abete, agrifogli e cose così, sono attestate fin dai primi secoli dopo Cristo addirittura in Siria, non, e naturalmente nella Scandinavia sono celebrate attraverso l'albero sempreverde, chiamato con varie accentuazioni, varie pronunce, albero di Yule prima che diventasse albero di Natale. Dunque il verde è la prima grande richiesta, la prima grande ricerca e desiderio che qualcosa della vita vegetativa, qualcosa della vegetazione continui a vivere. Il verde è presente nei festoni natalizi, nell'albero di Natale, in tutti gli alberi che ci sono nelle piazze, ed è proprio il bisogno di riconfermare a noi stessi che la vita continua. Il rosso? Il rosso è molto interessante, per esempio in questi rami come l'agrifoglio che abbinano il verde con il rosso, perché il rosso è proprio quell'aspetto molto vitale che cova sotterraneo. Il rosso è il fuoco che cova sotto la cenere, il rosso è il colore dei frutti che sono la garanzia più come certa, il melograno ad esempio, della melagrana, proprio di questa ricchezza, ricchezza di semi che è la garanzia più certa che la vita continuerà. Mentre il bianco, dottor Widmann? Il bianco, che è molto associato alla neve, è un bianco, come dire, che dà luminosità. Tutti noi conosciamo, se non viviamo nella Scandinavia o se non andiamo in montagna, conosciamo tutti però la luminescenza che trasmette il paesaggio innevato. Ed è veramente da ricordare che in questo periodo la luce tende a spegnersi, in nessun momento dell'anno è così bassa come in questi giorni. Però siamo già in ripresa, meno male. Sì, sì. Bianco, rosso e verde, Alessandro, sono i tre colori, no, del Natale. Allora io vorrei una ricetta per un Natale speciale, che è quello dei 150 anni dell'Unità d'Italia, per ascoltatori speciali. Tu dai una ricetta a noi daremo una ricetta a te, tante ricette a te. Chissà che tu possa scegliere una delle nostre per inserirla in uno dei tuoi menù. Che dici? Molto volentieri, molto volentieri. Allora, a proposito di tricolore, ho realizzato ultimamente due ricette, un primo e un dessert. Come primo piatto ho fatto un orzo perlato, l'orzo perlato è un cereale antichissimo, l'orzo, il farro, e l'ho realizzato con della cicoria, quindi la cicoria sfumata, messa mantecata, quindi a fine cottura, dopo una volta cotto, con dell'olio, della cipolla, del brodo per 20-25 minuti, quindi un po' a modo di risotto, che ci sono almeno 10 minuti in più di come tempistica di cottura. Alla fine si manteca con della cicoria frullata, sopra si mette una quenelle, quindi fatta con due cucchiai di ricotta di bufala, e dei pomodorini canditi, quindi abbiamo il verde, il bianco e il rosso. E l'altro dessert è un gelato tricolore, quindi fatto con della menta fresca, delle fragole e un gelato al fior di latte, quindi tre elementi della bandiera dell'Italia. E poi, se vogliamo, mettere delle decorazioni un po' che facciano ancora più Natale, vestiamo il tricolore anche a Natale. Dottor Speciani. Ma abbiamo davvero, tra l'altro, una delle cose belle, prima citavamo il melograno, ma la stessa arancia, è veramente piacevole pensare come la stagionalità ci porti in questo momento frutti con cui abbiamo trovato una sorta di simbiosi, per cui gli antiossidanti presenti nel melograno, per cui la vitamina C presente nell'arancia stessa, sono elementi che ci danno, oltre al piacere del colore ovviamente, ma anche veramente degli elementi di salute, per cui possiamo inserirli con gioia, mettere davvero insieme ai nostri un gelato come quello che ha fatto adesso Alessandro, direi. Quindi, che mangio perché mi piace, ma mangio perché mi fa bene. Dottor Widmann, grazie, tanti auguri a lei. Grazie. Tanti allora, auguri a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie, auguri di cuore. E, molti ascoltatori, Alessandro, mi scrivono, ne conto almeno 7-8, ridate la ricetta delle alici con la provola. Allora, io lancio questa cosa, vediamo se qualche nostro ascoltatore è stato attento e io invito a dare, lei non vale, invito a chiamarci all'800 24 00 24 per ridare la ricetta con le alici con la provola, suggerita dal nostro amico Alessandro Circiello, perché a voi, a uno di voi, al primo che ci chiama con la ricetta corretta, poi abbiamo l'autore, l'inventore di questa ricetta, e non dovete sgarrare, abbiamo il libro che il dottor Speciani ci ha portato per voi, Recuperare la tolleranza alimentare. Quindi chiamateci 800 24 00 24 per ridare la ricetta, ma per darne anche di nuove. Roberto, dalla provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno. Che si fa lì a Lucca? Ha fatto l'albero, il presepe, sì, ha preparato i regali? Sì, io il presepe lo faccio in miniatura, sicché me li faccio per conto mio, piccolissimi. Sicuri. Io abito vicino a Viareggio e avevo dato una ricetta, ho sentito delle alici, no? Sì. Io le trovo anche una volta alla settimana, le prendo anche a 4 euro, sicché ne prendo un mezzo chilo per 3 persone e le faccio filettate al forno, però le faccio col pane grattato, sì, o aglio, prezzemolo, peperoncino, un po' di sale, impanate in forno, anche due strati, per un 10 minuti, un quarto d'ora a 180 gradi, con filo d'olio e è una bontà. Più naturale di così. Le sì, farà... come ti faccio come secondo. Le farà anche a Natale? No, a Natale no, però io quasi tutte le settimane le faccio così. Poi ce n'è un'altra che a Natale si può fare. Sì, sono a Natale si può fare, mi piace. Com'è? Sì, con le code di gambero, se uno fa pesce naturalmente. Sì. Con le code di gambero si fanno saltare in padella con aglio, prezzemolo, sempre peperoncino, un po' di vino bianco. Poi si puliscono, si prende la pasta sfoglia, si fanno delle striscioline, sì, lì è un po' sporo, un po' lungo, però è sfizioso e bellissimo. Si fanno tipo mini croissant, si mettono in forno spennellati con un po' di torlo d'uovo sopra appena con la carta forno e poi mangiati caldi. Grazie Roberto. Prego. Alessandro, è bravo Roberto? Ti ha dato qualche ideuzza? L'unico accorgimento è cuocerli poco specialmente i gamberi, ma anche il pesce azzurro, cioè il vecchio detto carne cruda e pesce ben cotto, il pesce deve cuocere giusto, perché se andiamo a cuocere eccessivamente i gamberi rimangono duri, ovviamente di qualità italiani, rimangono poi gommosi. E ugualmente il pesce azzurro, se cotto eccessivamente le alici sono talmente sottili, bastano proprio 40 secondi per lato se andiamo a cuocerle in padella. Un abbinamento che, tornando al melograno, alla melagrana, un ottimo abbinamento per la festività è abbinare un centrifugato di melagrana miscelato con dello spumante, magari un ottimo connubio di abbinamento al posto del vino per Natale insieme al tacchino farcito magari con le castagne. Anch'io lo faccio. I Bellini di Natale, questo. È una specie di un'alternativa al Bellini di Natale. Io schiaccio i granini di melagrana nello schiacciapatate. È un po' faticoso, però è buonissimo. Roberto da Modena, buongiorno. Buongiorno. Che cosa riceverà a Natale? Guardi, noi, io e la mia compagna mettiamo via i soldi, adesso le mie figlie non lo so, ma mettiamo via i soldi per andarci a riposare sulle Dolomiti. Bravo Roberto. Perché noi là troviamo pace e tranquillità. E questo fa bene, questo è veramente un regalo di benessere, staccare un po' la spina. Roberto, sì, allora... Niente. Lei ha una ricetta o una ricetta. Un gioco? Che cosa no, ci ha portato? Ricetta. Una ricetta. Siamo... No, una ricetta meno complicata delle altre, ma semplice. Perché le mie figlie vogliono quelle, vogliono fare la tradizione modenese, ma vogliono le penne al barolo. Come si fanno le penne al barolo? Voglio sapere. Perché qua c'è il dottor Speciani, poi sentiamo se Alessandro approva. Mette appena un po' d'olio, si fa saltare appena un po' d'aglio, si tira via. Poi si mette dentro della cipolla tropea, un chilo e cento, un chilo e due, e si versa dentro la bottiglia di barolo. Poi si fa passire la cipolla fino a quando è diventata proprio passita. E niente, poi si fa saltare con le penne in una padella e si mette appena chi vuole un po' di panna. Tutto lì, semplicissimo. E molto... Solo che le mie figlie vanno matte. Quanti anni hanno le sue figlie, Roberto? 27,5 e 17,5. Vede. Allora, questa mi sembra una di quelle ricette che in realtà sono legate ai ricordi. Cioè, tu hai il tipico gusto di una cosa che veniva fatta dalla nonna, ad esempio, e che rimane, che quindi uno vuole ripetere nel tempo e che ha insegnato ai figli. Ah, io una domanda la butto lì. Come si veste la gente a Natale? Io, ad esempio, metto sempre un golfino rosso. Ce l'ho da... Bello, questa mi piace. Come vi vestite? Ecco, quindi aggiungiamo anche un altro elemento, oltre alla ricetta, oltre agli addobbi, ai giochi che farete, a quello che vorreste ricevere o regalare, come vi vestite? Intanto, vi prima dei mercati, Rosa ci suggerisce le pizzette di melanzane come antipasto. Sono veloci e piacciono a tutti. Essere e benessere. Noi ci stiamo preparando al Natale, facciamo una sorta di prova generale. Il dottor Speciani, che è qui per raccontarci, per darci dei suggerimenti anche su come evitare, no, di esagerare, però ci lascia un po' mangiati tutto. Sì, uno però lo do, questo è importante, perché noi abbiamo un rapporto col Brindisi, per cui uno arriva a casa da qualcuno, te bevi un goccino, fai. Ecco, questa cosa, ad esempio, se viene fatta con un minimo di pensiero, pensate a mangiare 3 mandorle o 3 noci prima di bere dell'alcol. Allora, il problema dell'alcol è che se arriva dentro a livello gastrico senza niente, viene assorbito immediatamente, ingrassa immediatamente, quindi questo, e soprattutto fa andare un po' via di testa. Allora, un trucco semplice anche per ridurre gli effetti immediati, visto che poi alla fine la gente comunque sbevacchia un po', ci si incontra, ci si saluta, eccetera. Certo. Teniamo pronti, io direi sempre anche un pezzo di sedano e di carota, però... Sì, però a Natale si vergogna. Sedano e carota non si vergogna, però insomma delle nocciole, delle mandorle, che sono degli elementi importantissimi, quindi il loro grassino che hanno dentro, che sono degli oli che sanno benissimo tra l'altro alla salute, in realtà rallenta l'assorbimento dell'alcol, quindi questo è un trucco, io lo suggerisco, aiuta tanto, perché mangiarsi 3 mandorline piuttosto che 3 noci prima di bere una coppa di una flutta di spumante o di prosecco aiuta a non assorbirlo velocemente, quindi a non mettere tutto lo zucchero che viene trasformato in grasso e a restare lucidi nel parlare. Questa mi piace. Tra l'altro, voi come vi vestirete? Vorrebbe saperlo il dottor Speciani. Lui indosserà un maglione rosso, sì, ma è lo un po' pelosino. Sì, un po' pelosino, è lo stesso che tengo da tanti anni. Mi piace, Natale. Sì. Alessandro, tu la sapevi questa delle mandorle e delle noci? Adesso, quando si brinda, ti porterai anche tu dietro in tasca? Sì, è importante anche bere molta acqua, che io sappia, è importante anche per tanti motivi. Poi la frutta secca in questo momento è perfetta, poi si può trovare in piccole confezioni in tanti modi e si può abbinare in tantissime ricette, dagli antipasti ai secondi piatti con l'agnello, però cruda, ecco, in questo modo è perfetta con tutti gli oli essenziali. Ma tu come ti vestirai a Natale? Beh, quest'anno lavoro, quindi in giacca bianca, come al solito. Giacca bianca, che siete elegantissimi, avete i pantaloni a quadrettini? Neri. Simon, dalla provincia di? Vicenza. Valdagno, di Vicenza, di Valdagno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. È un grande emozione parlare, ascolto ogni giorno. Grazie, Simon. Senta, come si vestirà? Giacca e cravatta, maglione rosso. Sì, maglione rosso, sì. Anche lei è del gruppo del dottor Speciani. Simon, lei che cosa ci porta in questa trasmissione? Una ricetta, un regalo, allora, un'idea? Una ricetta. Praticamente il capone è solito di ogni anno, poi i ravioli fatti con radicchio rosso e capone. Buono, Qui ci sono anche altre cose dentro, però è una cosa, i ravioli fatti freschi. Teoricamente lavoro in un'azienda che produce ravioli freschi, che fa solo proiettori. Però no, Simon, vale. Questo non vale, lei se li porta a casa. Lei si porta a casa il raviolo e non... assolutamente. Se ho l'indirizzo ti rimando anche a casa. Va bene. È la roba, se rimando l'indirizzo proprio sono... Magnifici. Che si ha una ricetta fatta da... proprio che va usata solo per Natale, proprio, scusa, ho troppo emozione. No, ma grazie Simon, grazie, le faccio tanti auguri. Alessandro, il cappone è un piatto proprio natalizio, ci sono dei trucchetti per renderlo ancora più buono o delle cose da evitare per non fare? Il cappone è ottimo per tanti abbinamenti, e si può realizzare dei classici tortelli, ovviamente con la farcitura di patate all'interno, con del timo, e oltre a fare un buon brodo è fondamentale, si può evitare di togliere, quindi si può eliminare la pelle. Fare un brodo con sedano, carote e cipolle, per fare un buon brodo bisogna partire sempre da freddo, quindi l'acqua deve essere fredda, mentre per fare un buon bollito è l'opposto, perché i succhi si devono, delle carni si devono rapprendere, quindi rimanere all'interno, e il brodo opportunamente filtrato, magari con delle erbe aromatiche alla fine, proprio per dare un aroma, un'infusione, si può utilizzare come abbinamento. Io ultimamente ho fatto questo piatto con dei tortelli di patate e timo all'interno e del cappone, cotti prima nell'acqua, poi nel brodo di cappone, perché se andiamo a cuocere subito nel brodo tutta la farina, tutta l'amido ovviamente è all'interno, quindi il brodo, il buon brodo rimane torbido, come si dice nel gergo culinario, si servono i tortelli a parte su un piatto, e invece di mettere il brodo nel piatto stesso si serve accanto, al posto del vino, quindi un abbinamento del caldo. Ma vedi, non l'avevo, invece io li ho sempre fatti cuocere direttamente nel brodo. Errore! Chi è che fa l'errore come me? Tanti, penso. Anche sì, lei, sì. Dottor. Questo adesso però l'ho imparata, l'ho allora, segnato, quindi preso appunti. Si fanno cuocere da parte per non rendere torbido il brodo. Diciamo, solidifichi la pasta fondamentalmente. Alessandro, ma quante ce ne dici? Vediamo Daniela se è preparata. Buongiorno Daniela. Sì, buongiorno a voi tutti. Che regalo ci fa oggi lei? È un regalo, no, niente, io dovrei provare a riproporre la ricetta. Ah, regalo lo vuole lei, Daniela, ha capito, va bene, dai, allora, sì, glielo facciamo noi. Sono stata abbastanza attenta, dovrebbe essere così, dopo aver sfilettato le alici, in una teglia si fa a strati le alici con la provola tagliata sottile, affumicata, tagliata in maniera sottile, e condita a più strati, mettendo poi per insaporire del timo fresco rigorosamente e un filino d'olio, mi pare. Brava, bravissima. Mi sembra Alessandro, vero Alessandro, che l'ha detta tutta? Beh sì, un ottimo abbinamento. Non ha detto che tu avevi invece aggiunto la carta forno. Poi diceva 5-6. Perché se no automaticamente questo piatto rimane attaccato nella teglia. Va o utilizziamo una teglia antiaderente oppure la carta forno. Ecco, però ecco, noi ricordiamo di usare la carta forno, che ci permette anche di usare meno condimento. Assolutamente. No? Dottor. Vabbè, però Daniela la carta forno la usa sempre, vero Daniela? E riceverà assolutamente, oppure usa sempre padella antiaderenti, e quindi certo. Daniela riceverà a casa in regalo dal dottor Attilio Speciani, che gli farà anche un autografo. Certo, assolutamente, gli auguri di Natale sul libro. Gli auguri di Natale. Sono contenta. Lo pensi con un maglioncino rosso, recuperare la tolleranza alimentare. Grazie. Benissimo, grazie. Simona dalla provincia di Como, buongiorno. Buongiorno. Che regalo mi fa oggi? Io volevo segnalare una ricetta, un piatto povero che si usa dalle nostre parti, che è la trippa. Bello, povero ma sostanzioso. Povero è da discutere che sia povera la trippa. Beh, ecco, da noi è conosciuto come piatto povero, sì. Perché effettivamente è un piatto, nonostante quello che si pensi, è molto digeribile come piatto e richiede una lunga cottura, però è gradevole. Noi saremo in 15 domani. Tutti di trippa? Esatto. Tanti auguri Simona. Grazie. Alessandro, ecco. La trippa è difficile un po' da cucinare, vero? Beh, l'importante è cuocerla inizialmente a bassa temperatura. Cosa vuol dire? Adesso questa tecnica è una tecnica che utilizzo in tanti ristoranti per fare le carni morbide. Cuocerla a fiamma molto bassa, quindi si fa il soffritto, si può fare in tanti modi, col pomodoro, senza, con delle patate, quindi in tantissimi modi. L'importante è farla dorare inizialmente a fiamma bassa e portarla avanti in cottura, quindi con del liquido, quindi mettiamo del pomodoro o del brodo, dell'acqua, qualsiasi elemento liquido. L'importante è che cuoce almeno per un'ora a fiamma bassa, in questo modo le fibre si rilasciano e rimane morbida, un po' come il polpo, per dire. Quindi piano piano piano le cotture lente, sì, ma non solo Speciani, della trippa, molte persone aiutano? Sono convinti, sì, aiutano, ma soprattutto a basse temperature abbiamo un miglioramento delle caratteristiche che restano. Un dato che vorrei segnalare è che la trippa, molte persone, ad esempio io stesso quando ero piccolo la consideravo un piatto grasso, in realtà ha un forte contenuto proteico, quindi è un buon elemento dal punto di vista nutrizionale, è un elemento sufficientemente bilanciato. Vado a controllare se è venuto bene. Beh, il flash è scattato, tesoro. Oh, Julien, non muoverti. La foto di Natale è una faccenda molto seria. È per questo che hai deciso di vestirti come una strega quest'anno? Che cosa ti prende oggi? Sembri una dodicenne. Scusa, Giorgi, ma leggere Chomsky e ascoltare i New Kids non si escludono a vicenda. Non sai nemmeno di che cosa stai parlando. Ragazzi, è la mattina di Natale. Smettetelo di litigare. E a Natale non solo si mangia, ma intanto che si mangia si chiacchiera. E allora a volte capita che quando ci alziamo e diciamo siamo un po' appesantite, da appesantirci non sono tanto il cappone, le sfogliatine, i tortellini che abbiamo mangiato con il cappone e con il brodo di cappone, ma le chiacchiere. In linea con noi abbiamo il dottor Francesco Aquilar, buongiorno, psicologo e psicoterapeuta, nonché esperto del nostro Daily Life. Come il dottor Speciani. Buongiorno dottor Aquilar, bentornato. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, tante volte le vacanze di Natale, le feste del Natale ci costringono a così gestire delle situazioni un po' impegnative, tenere a bada la battuta della cognata, la suocera che fa, no, il commento che magari fa un po' arrabbiare, e insomma è un gioco anche questo, sapersi destreggiare. E come no, è un gioco che a volte può essere pericoloso e può far molto male ad alcune persone che ne soffrono tanto. E poi ci sono alcune persone che soffrono di una cosa che viene chiamata reazione anniversario, cioè che nel momento in cui c'è una festa sono così pieni di aspettative sul desiderio di pienezza e di bellezza di questa festa che, poiché la realtà non può mai corrispondere a questo assoluto, diventano particolarmente arrabbiati, insofferenti e insopportabili di fatto anche per gli altri commensali. E quindi lì è la fine. E quindi diventa complicato. Allora chi è più attento a queste cose può decidere di svolgere un'azione che vada a vantaggio non solo degli altri, ma anche poi e soprattutto di se stesso. Appunto, si citava prima le frecciate e le frecciatine che possono arrivare e dobbiamo stare molto attenti a non ricambiarle e a lasciarle cadere. Ma perché... consigli per chi ha timore di queste feste, che teme di essere preso da tra più fuochi, perché anche dove ti siedi è importante. Ci sono, Essere e benessere. Cose da dire, cose da non dire a Natale. Dottor Aquilar. Eccomi. Allora, cose da dire. Cominciamo da quelle da non dire, che forse sono più importanti. Intanto non salutiamo dicendo sei ingrassato, sei dimagrito. Ah, sì, questo è un classico. Oppure ti vedo bella florida. Ecco. Niente da fare, perché questa è una critica per alcune persone, soprattutto chi ha problemi con l'alimentazione. Le feste di Natale sono una tragedia in più, temono di ingrassare, di diventare 400 kg in quattro festività, quindi cerchiamo di ridurlo. E se qualcuno ce lo dice a noi, facciamo finta di niente e diamogli ragione. Sì. Ti trovo dimagrito, va benissimo, ti trovo ingrassato, va benissimo, è vero. Ti trovo grasso come una botte, sì, che bello che ci porta. Primo. Secondo. Evitare le critiche, perché stiamo a Natale per cercare di passare delle ore carine, ma alcune persone non riescono a parlare senza criticare l'interlocutore. Sì. Aspettano proprio Natale per no, farlo. Aspettano tutte le occasioni, e Natale è un'occasione servita su un doppio piatto d'argento. Allora ci può servire di non abboccare a questo gioco della critica, sì, e provare invece a riconoscere tutte le cose buone che gli altri ci raccontano. Sarà un vantaggio anche per noi. Che bella idea che hai avuto, come mi piace il tuo sorriso oggi, hai scelto un paio di orecchini che mi piacciono da morire, cercando di far fallire invece il tentativo di chi si lamenta, di chi vuole porre la questione filosofica, esistenziale e generale della vita, di chi attacca con le storie politiche o con le questioni vitali dei suoi problemi che vorrebbe che qualcun altro gli risolvesse proprio a Natale. Quindi possiamo favorire una conversazione più serena e lasciar cadere tutti i tentativi, certo, altrui, validandogli l'emozione. Cioè, uno dice che è triste e che si vuole, come dire, dare con la testa nel muro proprio il giorno di Natale, capisco la tua tristezza. E poi portare quindi su un piano di benvenuto, nutrimento emotivo, conforto e rassicurazione, utilizzando il più possibile un'ironia che non sia cattiva e che sia neutra. Sì, un umorismo neutro. Sì, sì. E questo ci può molto aiutare, tenendo appunto presente, come dicevo prima, che questo apparente lavoro che la persona più consapevole alla quale noi ci rivolgiamo anche attraverso Radio 24 che ci ascolta, sembrerebbe fare per gli altri, in realtà è abbastanza in funzione del singolo, perché anche lui o lei che godrà di un'atmosfera natalizia più serena, malgrado il tentativo fatto da altri un po' meno consapevoli che involontariamente rovinano a se stessi e agli altri un'occasione di volersi bene. Insomma, ce la possiamo fare, dottor Aquilar? Io dico di sì. Assolutamente sì. E poi sarà bellissimo aver applicato un po' di questi principi e divertirsi a vedere come il Natale di quest'anno, con questi piccoli suggerimenti, sarà più pacifico e divertente di quello magari dell'anno scorso. Assolutamente. Grazie, dottor Aquilar. Tanti auguri. Grazie a voi, ascoltatori. Grazie, grazie. Lidia, buongiorno, dalla provincia di Varese. Sì, auguri. Auguri, Lidia. Auguri. Questa visione di Nicoletta che spreme i grani del melograno, sì, con lo schiacciapatate. L'ha commossa, patate, vero? Anche a me commuove. Ecco, una bella centrifuga. Mio marito tutte le sere al suo succo di melograno quando torna. Vede che io non ho. Rimangono solo i chicchini. Vede no, che. No, però sappiamo cosa regalare a Nicoletta. Una centrifuga. Beh, è un suggerimento. Anche io quando passo quei chicchini mi commuovo da sola, guardi. Con la centrifuga è veloce, solo per stare attenti, perché tenendo aperto un po' il coperchio per introdurli, qualche chicchino salta. Io gli occhiali non ho problemi. Lidia, l'abbraccio, grazie, anche tanti auguri. Un abbraccio, buon Natale a tutti. Grazie. Grazie per i consigli preziosi. Grazie. Buona giornata. Alessandro, vedi la centrifuga? La centrifuga è importante, anche perché rimangono dentro la parte amara, la pellicina bianca rimane all'interno. Ma adesso in linea con la stagione possiamo fare anche una bella centrifuga di mandarini, cetrioli abbinati con delle mele, quindi mela verde, cetrioli e mandarini, quindi un connubio da utilizzare tutte le ore. Questo piacerà sicuramente, sì, al dottor Speciani, io però, perché lui però dico che siccome del frutto in realtà c'è una cosa fondamentale che è la fibra, normalmente quando faccio una centrifuga sembro un pazzo, perché faccio la centrifuga così spremo tutto, poi vado a riprendere i carnicini che sono rimasti dentro e me li aggiungo, certo, ma allora tanto vale mangiarlo tutto. È buono. La fibra però è ottima per i gelati, da utilizzare nella gelateria, quindi si possono fare degli ottimi gelati o delle mousse. Fantastico, dottor Speciani. Abbiamo Franco da Mantova, buongiorno. Buongiorno. Franco. Due secondi per fare un complimento. Lei c'ha una voce che coccola all'ascoltatore. Oh, grazie. Lei mi fa un complimento che veramente mi tocca il cuore. Grazie Franco, siamo a Natale d'altra parte. Lei è molto carino. E poi dopo che ho visto la fotografia ancora più gradito. Grazie. Allora, io parlo del basso mantovano, ho 62 anni, per cui. E allora si usava tortelli, un pesce secco che non mi ricordo come si chiama, e mostarda e quella roba lì. Ma la poesia del Natale stava nel fatto che il bambino, diciamo piccolino, scriveva una lettera al papà piena di buoni intenti e la metteva sotto il piatto del primo, e tutti gli anni il papà si stupiva, faceva le cose strane. Lei pensi che tuttora io a 62 anni scrivo una lettera a mio padre e la affido al vento, dove va, insomma. Ma questo è bellissimo, Franco. E cosa scriverà nella lettera di quest'anno, Franco? Le stesse cose, sarò più bravo, sarò più attento, non disubbidirò, come se ci fosse, ecco. Franco, mi è piaciuta molto la sua telefonata, non solo perché mi ha fatto i complimenti, ma tanti auguri, Franco. Bene, immagino. Buon Natale. Auguri. Auguri. Abbiamo Alessandra che ci chiama da Milano. Buongiorno a tutti, auguri. Auguri. Bellissima trasmissione. Cosa ci regala Alessandra? Allora, vi regalo un'idea di come vestirsi a Natale. Mi piace. Bene. Allora, io cerco sempre di vestirmi, io e la mia famiglia, nei colori di cui apparecchio la tavola. Per cui quest'anno siamo in blu e argento, l'anno scorso eravamo in beige e oro, a parte il marito che onestamente ci cerchiamo di tenerle solo un colore. La bambina è sfiziosa e tenta sempre di vestirla in questi colori. È un modo come un altro di uscire dalle solito dal solito rosso che è veramente augurale, il dottor Speciani me lo immagino sempre in rosso, così evitiamo tutte le intolleranze. No, però, e quindi il dottor Speciani non potrebbe venire tutti gli anni a tavola con... beige e oro, devo dire, no, non mi vedo tanto bene. Grazie, no. Grazie Alessandra, tanti voi. Auguri. Grazie, a presto. Io ho un'amica che ho voluto invitare in questa puntata, in questo portateco, ed è un'amica che ci aggiunge un profumo a Natale. In linea con noi abbiamo Laura Tonatto. Ciao Laura. Ciao Nicoletta, grazie per questo graditissimo invito natalizio. Senti Laura, noi abbiamo chiacchierato, abbiamo mangiato, abbiamo scoperto anche come non ingrassare troppo, come chiacchierare. Alessandro Circello ci ha dato delle ricette strepitose di cui poi ti racconterò, ma vogliamo anche un profumo. E beh, il profumo è quello del Natale, che in questo periodo si deve sentire, il profumo della magia, il profumo dei re magi, dei bambini, quindi incensi, mandarini, ambra, oro, questi dovrebbero essere i profumi che si sentono a Natale. In realtà io invito tutti a acquistare prodotti italiani e prodotti di artigiani italiani, perché questo è l'unico modo per salvare queste piccole ma straordinarie aziende che abbiamo e per dare la possibilità ai nostri figli di avere lavoro. Certo. E quindi sempre meno cinese, purtroppo è da dire, e sempre più controllate le etichette che siano prodotti italiani. Grazie a Laura Tonatto per essere stata con noi, tantissimi auguri. Abbiamo ancora un minuto, vero Paolo Corleoni, che ringrazio in regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, per chiedere ad Alessandro una salsa. Cioè, il mondo si divide, panettone e pandoro si accompagnano o no con le salse, ma noi una salsa la vogliamo lo stesso, una salsa rapida e gustosa, buona, che riesca sempre. Alessandro, facci una magia. Un classico, quella abbinando i mandarini, una salsa inglese, l'unico abbinamento per il pandoro e il panettone, perché l'importante è lasciarlo in un ambiente tiepido, magari anche vicino a un termosifone, in modo che si surriscalda il burro e rimane, dal punto di vista organolettico, rimane più gradevole. Una salsa inglese fa un litro di latte, si porta ad ebollizione con della vaniglia, della scorza di arancia, 150 grammi di zucchero semolato, si miscelano con 6 polli d'uovo. E una volta miscelati, se vogliamo stare tranquilli che non strappa, possiamo mettere 10 grammi di farina di riso, proprio per rendere ancora più digeribile o evitarla completamente. Si mette il latte all'interno, si passa al colino e si porta sulla fiamma senza farla bollire. Mi raccomando, vero? E questo è il segreto, si addensa senza bollire. Grazie Alessandro, ti penseremo. Dottor Speciani, grazie, noi ci sentiamo il 26. Buon Natale! Buon Natale. Essere e benessere.